Attenda di seta, di stoffa giapponese. Ogni volta ci scopro dettagli infiniti, a volte dei volti, altre volte le mani. Ogni volta è diverso, muta il suo immenso. Su scale infuocate risplendono le rose, un tempio distrutto, un rosario, una croce, ma mai la stessa voce, ma mai la stessa pace. Sempre diverso il divenire, sempre diverso il suo sole. Ponti di cristallo attraversano i suoi fiumi, angeli guerrieri fanno la guerra alle ombre, fiori d'acqua galleggiano nei ricordi della sua memoria, ogni petalo una storia, ogni seme una bandiera da sventolare nei suoi silenzi, dove si celano i tormenti che le ferite fanno più male, lì dove non arriva mai il sole. Nessuno sa cosa c'è davvero in fondo al cuore, è un gran mistero che le ferite fanno più male lì dove non arriva mai, mai il sole.